Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. 14ª puntata. A mio padre, che era un tipo d'uomo un po' infantile, piaceva moltissimo dar buone notizie alla gente. Una sera, nel mese di marzo del 1963, rientrò dall'ufficio con quell'inconfondibile espressione, divertita e compiaciuta in anticipo, dipinta in faccia. Mia madre la notò mentre gli porgeva la tazza di tè. Gli chiese di cosa si trattasse, ma lui scosse il capo con un sorriso enigmatico e ci disse di aspettare, lo avremmo saputo all'ora di cena. Quando ci sedemmo a tavola, mio padre era ormai troppo impaziente per sottoporci ai consueti indovinelli. «Ho una novità per te», disse rivolto alla nonna. «Novità?» chiese la nonna ansiosamente. «Quale novità?» Strofinandosi le mani, mio padre le disse che il Shaheb aveva ottenuto una nuova destinazione e una promozione, uno degli obiettivi più importanti nella sua professione. La nonna sbuffò e prese il piatto del dal. «Impossibile», disse scuotendo la testa. «Perché?» mio padre era indignato. «Perché promuovere proprio lui?» disse la nonna mentre il suo profilo si faceva sempre più tagliente. «Beve, è un ubriacone!» Mio padre era furioso e le disse che non sapeva di che cosa stesse parlando. Il Shahem non era affatto un ubriacone, si limitava a bere occasionalmente, il che era del tutto normale nel suo ambiente. La sua competenza era ben nota e se non occupava il posto che meritava era solo perché certe conventicole del ministero cercavano di farlo fuori, non c'entrava niente col bere, lei era del tutto fuori strada, eccetera. Per una buona mezz'ora mio padre si ostinò nel tentativo di convincerla del fatto che il Shaheb era un uomo molto dotato e che avrebbe dovuto essere al culmine della carriera. Quando alla fine rinunciò, la nonna disse placidamente: «Non mi hai ancora detto qual è la sua destinazione». Mio padre si diede un colpo in fronte. «Ah, sì!» gridò. «Mi ero dimenticato della vera novità». «Perché?» chiese la nonna. «Dove andrà?» «Non lo indovineresti mai», disse mio padre. «Dove?» «Non lontano da qui», disse socchiudendo malignamente gli occhi. La nonna allontanò il piatto. Sembrava irritata, forse addirittura spaventata. «Dove?» supplicò. «Dimmelo!» «A Dacca!» annunciò mio padre con aria di trionfo. «Lo hanno nominato consigliere dell'alta commissione governativa». La nonna gli lanciò una lunga occhiata priva d'espressione, poi spinse indietro la sedia e si diresse lentamente verso la sua camera. Poco dopo, quando la seguì al piano di sopra, trovai la sua porta chiusa a chiave. Nei giorni seguenti nessuno nominò Dacca. Ma un giorno sentii mia madre dire a mio padre, con aria triste, che sarebbe stato un bene se la nonna fosse andata a Dacca per una vacanza. Sarebbe stata una tregua per tutti. Una settimana dopo arrivò una lettera per la nonna. Era di Maya Debi. Mio padre la soppesò e lui e mia madre si scambiarono lunghe occhiate. Poi mi disse di portarla alla nonna. Mi precipitai di sopra ed entrai nella sua stanza sventolando la busta come una bandiera. «Tamma, Tamma, c'è una lettera per te!» Corrugò la fronte in un'espressione di ansiosa attesa e toccò la catena d'oro prima di prenderla. Mi sedetti a guardarla mentre inforcava gli occhiali e strappava la busta. Quando però si accorse che ero ancora lì, mise da parte la lettera e mi ordinò di lasciare la stanza. Durante il pranzo i miei genitori evitarono ogni allusione alla lettera. Per un po' la nonna parlò nervosamente di politica, dello stato dell'istruzione, del discorso che il primo ministro aveva tenuto in Parlamento e così via. Poi, senza una pausa, con lo stesso tono di voce pacato, disse: «Maya mi ha invitato ad andare da lei a Dacca». I miei genitori alzarono gli occhi e sorrisero. «Certo, non dubitavo che l'avrebbe fatto», disse mio padre. La nonna si mordeva un labbro e fissava il piatto. «Non so se devo andarci», disse sottovoce. I miei genitori si guardarono stupiti. «Sicuro che devi andarci, mamma», disse mio padre. «Che cosa c'è?», disse mia madre. «Solo pochi mesi fa dicevi che era l'unica cosa che volevi realmente fare». «Lo so», disse la nonna con aria incerta, «ma adesso, non so, ho dei dubbi. Credete che sia una buona idea dopo tutti questi anni? Non mi sentirei più a casa mia». Nei mesi successivi, i miei genitori cercarono spesso di convincerla gentilmente a prendere una decisione. Ma ogni volta che toccavano l'argomento, la nonna scuoteva la testa oppure si alzava in piedi e usciva dalla stanza. 3 mesi dopo, in giugno, una sera tardi, squillò il telefono. Andò a rispondere mio padre. Ascoltò, poi mi disse di chiamare la nonna. Era un'interurbana per lei da Delhi. Era Maya Devi. Una chiamata interurbana era un avvenimento eccitante, una specie di piccolo miracolo, ma era anche fonte di preoccupazione fino a quando non si sapeva se le notizie fossero buone o cattive. Salì le scale così in fretta che quando entrai nella sua stanza non mi restava neanche il fiato per parlare. Allora la presi per mano e la trascinai giù per le scale. I miei genitori e io le gironzolavamo intorno mentre lei chiudeva un orecchio con un dito tremante e avvicinava all'altro la cornetta dell'apparecchio. La sentimmo dire: «Sì, sì, non lo so, non riesco a decidere. Quando parti?» Ci fu una breve pausa mentre ascoltava Maya Devi. Poi a voce altissima cominciò a spiegarle che lo zio era ancora vivo e abitava sempre nella loro vecchia casa di Dacca, che lei, Maya Devi, doveva andare a trovarlo subito, appena arrivati a Dacca. Bisognava fare qualcosa per portarlo in India. Era senza fiato e per un attimo rimasi in ascolto. «Non so», disse rispondendo a una domanda. «No, davvero, non riesco a decidere. Non è per me. Sono preoccupata per Jethamosheyi». Poi rimasi di nuovo in ascolto, ma sorrideva e infine disse: «Va bene, verrò, te lo prometto». Maya Devi, il Shaheb e Robi erano arrivati a Delhi in aereo la settimana prima, spiegò ai miei genitori dopo aver riattaccato. Sarebbero partiti per Dacca 2 giorni dopo. Non potevano fermarsi a Calcutta, non avevano abbastanza tempo. «Ma andrai a Dacca anche tu?» chiese mio padre. «Questo è l'importante». La nonna si strinse nelle spalle con aria infelice. «Che altro posso fare?» ripeteva. «Ormai non dipende da me, tutto sembra andare in quella direzione». «E quando ci andrai?» «Se ci andrò», rispose, «sarà a gennaio del prossimo anno. Devo dar loro il tempo di sistemarsi nella nuova casa». Qualche settimana dopo, durante il pranzo, mio padre fece scivolare dall'altra parte del tavolo una grossa busta. «È per te», disse alla nonna con un largo sorriso. «Che cos'è?» domandò lei sospettosa. «Su, da un'occhiata», disse lui. Lei la prese, ne sollevò il lembo e ci guardò dentro. «Non capisco», disse. «Che cos'è?» Mio padre scoppiò a ridere. «È il tuo biglietto aereo per Dacca per il 3 gennaio 1964. Quella sera, per la prima volta dopo mesi, la nonna sembrava davvero eccitata. Quando salì a salutarla prima di andare a dormire, la trovai che camminava su e giù per la stanza, il viso colorito, gli occhi luccicanti. Ero felice. Per la prima volta nei miei 11 anni di vita il suo comportamento mi appariva del tutto comprensibile. Dal momento che neppure io avevo mai viaggiato in aereo, mi sembrava la cosa più naturale del mondo che la prospettiva del primo volo la riempisse di eccitazione. Una sera, mentre eravamo seduti fuori in giardino, lei chiese se dall'aereo sarebbe riuscita a vedere il confine tra l'India e il Pakistan. Quando mio padre le domandò ridendo se davvero pensava che il confine fosse una lunga linea nera affiancata da una linea verde su un lato e da una linea rossa sull'altro, come negli atlanti scolastici, la nonna sembrò più confusa che risentita. «Non intendevo questo», disse. «Ovviamente no. Eppure deve esserci qualcosa. Forse trincee o soldati, oppure fucili puntati gli uni contro gli altri, o soltanto fasce di terra». Non la chiamano terra di nessuno. Mio padre era un viaggiatore piuttosto esperto, scoppiò a ridere e disse: «No, non vedrai altro che nubi, o forse, se sarai fortunata, dei prati verdi». La sua risata la irritò. «Sii serio. Non parlarmi come se fossi una segretaria del tuo ufficio», disse asperamente. La nonna lasciò perdere per un po', infine riprese: «Ma se non ci sono trincee o altro, come fa la gente a saperlo? Voglio dire, dov'è la differenza? E se non c'è differenza, sarà uguale da tutte e due le parti. Sarà esattamente come prima, quando eravamo abituati a salire sul treno a Dacca e scendere a Calcutta il giorno dopo senza che nessuno ci fermasse. A che cosa è servito tutto ciò? La partizione, i morti e tutto il resto, se non c'è qualcosa in mezzo». «Non so che cosa ti aspetti», rispose esasperato mio padre. «Non è come se volassi in Cina, oltre l'Himalaya. Il mondo moderno è questo, il confine non è alla frontiera, ma dentro l'aeroporto. Vedrai, lo attraverserai quando dovrai compilare la carta di sbarco e le altre cose». La nonna si agitò sulla sedia. «Compilare come?» chiese. «Che cosa vogliono sapere?» Mio padre si grattò la fronte. «Lasciami pensare», disse. «Vogliono sapere la tua nazionalità, la tua data di nascita, quel genere di cose». La nonna sbarrò gli occhi e si appoggiò pesantemente allo schienale della sedia. «Cosa c'è?» chiese mio padre allarmato. Con uno sforzo si sollevò di nuovo e si lisciò i capelli. «Niente», disse scuotendo la testa. «Assolutamente niente». Solo molti anni dopo realizzai che si era resa conto all'improvviso che avrebbe dovuto scrivere Dacca nella casella del luogo di nascita, e questa prospettiva l'aveva preoccupata esattamente come la preoccupavano i libri di scuola sporchi. A lei piacevano le cose pulite e in ordine, e in quel momento non capiva bene come il suo luogo di nascita potesse contrastare in modo così disordinato con la sua nazionalità. In novembre, quando la nonna era già immersa nei preparativi per la partenza, ci furono parecchie altre novità. Maya Devi scrisse per dire che Maya, la figlia della sua vecchia amica Elizabeth, sarebbe venuta in India in dicembre per una vacanza. Prima sarebbe andata a Delhi e Agra, poi a Calcutta, dove si sarebbe fermata qualche giorno prima di prendere l'aereo per Dacca insieme alla nonna. Maya Devi voleva sapere se avremmo potuto ospitarla durante il suo soggiorno a Calcutta. Era sicura che in casa nostra sarebbe stata meglio che a Baliganj Place, dove era la nonna inferma di Tridib che dirigeva la casa. Mia madre consegnò la lettera a mio padre e lui scrisse che saremmo stati lieti di ospitare May. 15 giorni dopo venne a trovarci Tridib. Fece una breve conversazione di circostanza con i miei genitori, poi annunciò che sarebbe andato a Dacca con May e la nonna. «Sembra l'occasione giusta per andarci», disse, «dal momento che ci vanno tutti». Quindi si rivolse a me e disse: «Andrò a prendere May alla stazione quando arriva fra 10 giorni. Ti piacerebbe venire con me?» La prima volta in cui May e io parlammo del suo soggiorno a Calcutta fu il giorno dopo il matrimonio di Ayla. La parte londinese del matrimonio di Ayla fu molto semplice. Lei e Nick firmarono un registro da qualche parte e la sera Mrs. Price invitò a pranzo alcune persone, tra cui me. Nick e Ayla sarebbero partiti per Calcutta il giorno seguente. Nick aveva deciso che sarebbe stato divertente celebrare un vero matrimonio indù. Ricordo pochissimo della serata in casa di Mrs. Price. Ricordo che avevo un regalo, una minuscola saliera d'argento avvolta in carta colorata. L'avevo comprata in uno di quei negozi inglesi con un'insegna nera scritta in nitidi caratteri romani e un monogramma d'oro che dice solo su appuntamento. Benché mi fosse costato 20 sterline, tutto ciò che ero riuscito a mettere da parte nei 6 mesi passati in Inghilterra era l'oggetto meno costoso di tutto il negozio. Ayla lo prese in mano con aria divertita. «Che cos'è?» disse. «Lasciami indovinare, un fermacravatta in miniatura con brillanti incastonati. Oppure, no, è un piattino d'oro per i piccoli delle formiche. Oppure sì, certo, è un ditale da mignolo per un bambino». Arrivò qualcun altro e Ayla si allontanò. Mi appoggiai a una parete e rimasi a osservarla. Era radiosa. Rideva con quella risata tintinnante mentre si aggirava per la stanza in una fiammata di seta rossa e chiacchierava con gli ospiti. Non l'avevo mai vista felice come quella sera. Dopo un po', May mi offrì un bicchiere di vino e mi condusse in salotto. Era pieno di gente che non conoscevo. May mi stava dicendo qualcosa, ma ci furono difficoltà in cucina e dovette andare a vedere. Presi un altro bicchiere di vino, mi buttai in poltrona e chiusi gli occhi. Più tardi udii confusamente May che diceva «Svegliati, svegliati, è ora di andare a casa». E sentii la sua mano sul mio braccio. Quando aprii gli occhi, la vidi ansiosamente china su di me. Non c'era nessun altro nella stanza. Mi alzai in piedi barcollando, cercai di parlare, ma la mia gola raschiava come carta smerigliata e la voce era rauca. «Dov'è Ayla?» riuscii a dire. «Dov'è?» May posò con fermezza una mano sulla mia spalla. «Ayla è andata a casa con Nick. Devono preparare le valigie per domani. La mamma è a letto, io sto per andarmene a casa. E tu hai bevuto troppo. Credo che dovresti venire con me a Islington. Posso offrirti un letto e qualcosa da mangiare e domattina, rinato figlio del Bengala, potrei riprendere la strada di casa». Dal momento che avevamo ormai perso l'ultima corsa della metropolitana, May chiamò un taxi. Arrivò nel giro di pochi minuti e lei mi condusse fuori e chiuse a chiave la porta. Quando fummo seduti nel taxi, mi resi conto che respiravo a fatica. Avevo la gola serrata da quel tipo di affanno che precede un attacco isterico. Abbassai il finestrino e misi fuori la testa. L'aria era fredda, impregnata dell'odore acre di patatine e pesce fritto che proveniva da una rosticceria aperta fino a tarda notte. Mi si chiusero le orecchie e cominciai a lacrimare, ma la sferzata d'aria riuscì a svegliarmi. Sentivo un formicolio in tutto il corpo, come dopo un massaggio di olio di mostarda in un mattino d'inverno. Sentivo rinvenire la pelle e i peli sullo scroto e sulle cosce. Era come se una parte del mio corpo avesse scoperto nell'ubriachezza un mezzo per sollecitarmi a manifestare il dolore per il matrimonio di Ayla. Sentii un tocco sul braccio. May mi stava osservando preoccupata. «Stai bene? Vuoi che gli dica di fermarsi?» «No», scossi il capo. Tolsi la sua mano dal mio braccio e la strinsi nella mia. «Sì, sì», disse lei ironicamente, ritraendo la mano. Mi chinai verso di lei, le misi un braccio intorno alle spalle e la baciai, leccandole il lobo dell'orecchio con la punta della lingua. Rimase interdetta e per un attimo non aprì bocca. Poi prese fiato e si irrigidì. Mi mise le mani sul petto e mi respinse. «Puzzi d'alcol», disse con una smorfia di disgusto. «Spero che non vorrei combinare guai». Arrivati a casa, May cominciava a essere preoccupata. Lo capivo dai suoi gesti impacciati mentre pagava il tassista. Ma la mia era semplice curiosità. Non mi rendevo conto che aveva paura e che la sua paura poteva avere a che fare con me. «Per favore evita di fare rumore salendo le scale», disse lentamente, sillabando le parole. «La padrona di casa si secca molto se qualcuno la sveglia». «Starò buono», dissi. Mi incamminai e le passai le dita fra i capelli. «Piantala!» gridò con un brusco scatto della testa. «Che cosa pensi di fare?» «Sss, non sveglierai la padrona di casa?» Salì le scale in punta di piedi, aprì la porta del suo appartamento e la richiuse prontamente dietro di me. «Adesso ti sistemi laggiù», disse indicandomi il letto. «Ti infili a letto e ti metti a dormire. Mi dispiace di non poterti dare nulla per cambiarti, perciò dovrai andare a letto così come sei». «Subito?» sogghignai. «So che non intendevi dire questo. No, davvero. Per favore», la sua voce era rauca adesso, «per favore vai a letto». Mi girai verso il letto. Era piccolo e stretto, sepolto sotto un mucchio di trapunte e coperte, con un copriletto verde. D'un tratto ebbi un'idea. «Ma se io dormo là», dissi con l'astuzia dell'ebbro, «dove dormirai tu?» Senza rispondere aprì una credenza, tirò fuori una stuoia sottile, un paio di coperte e un lenzuolo e li trascinò per la stanza. Si inginocchiò, srotolò la stuoia e la distese sul pavimento. Era molto sottile, poco più di un lenzuolo. «Non è possibile che tu dorma lì», dissi stupito. «Non ti credo, perché tieni un letto allora?» «Ah, quello è perché la gente lo veda e non mi consideri troppo stravagante. Ma non hai neppure un cuscino?» «No», disse con aria sarcastica, «ed è stata la cosa più difficile a cui abituarmi». «Perché lo fai? Deve essere orribile dormire per terra». «Non molto», disse vivacemente. «Non c'è problema, come dicono alla televisione. Dopotutto, nel mondo la maggior parte della gente dorme così. Ho semplicemente deciso di condividere il destino della maggioranza». Si alzò in piedi e si tolse la polvere dalle mani. «Bene, adesso vai a dormire, per favore». «Posso mortificare anch'io la mia carne? Posso dormire per terra con te?» Cominciò a ridere. Dal suo viso trapelava la tensione. «Domattina ti sentirai molto stupido per tutto questo. Sono curiosa di vedere la tua faccia quando te lo ricorderò». «May, per favore!» «Sciocco!» disse ridendo. «Sei soltanto ubriaco. Non lo vuoi veramente? Sono vecchia abbastanza per essere una tua zia zitella». «Voglio, certo che voglio». «Bene, vedremo se oserai sostenerlo anche da sobrio. Per ora dovrai farne a meno, d'accordo?» Mi spinse gentilmente verso il letto. «Adesso, per favore, vai a dormire», disse. «Mi stai prendendo in giro», colpì la sua mano con violenza. «Non dovresti prendermi in giro». Mi chinai, presi la sua faccia tra le mani e la tirai verso di me. «Per favore, smettila!» I suoi occhi erano sbarrati per la paura. «Per favore!» «Perché no?» La baciai sulla bocca aperta, infilai la mano destra dentro il collo della camicetta, sotto l'allacciatura del reggiseno. «Basta!» gridò graffiandomi la faccia. «Perché?» La tirai verso di me con il braccio sinistro, la tenni stretta in modo che non potesse usare le mani. La mia mano destra si era insinuata profondamente dentro il vestito, avvinghiata al suo seno. Con uno sforzo tremendo, stringendo i denti, si divincolò dalla mia presa, si buttò all'indietro e cadde sulla stuoia. Sentii il rumore di una lacerazione mentre il suo vestito si strappava e io venivo lasciato a stringere l'aria. Quando la guardai, era rannicchiata sulla stuoia. Il seno sbucava dallo squarcio nel vestito che le penzolava sui fianchi. «Bastardo!» gridò. Scavalcò il letto, attraversò la stanza e all'improvviso la luce si spense. La sentii avanzare a tentoni fino al bagno. Poi strisciai fino al letto e mi lasciai cadere. Mi addormentai subito. La mattina dopo, svegliandomi, mi doleva la testa e avevo la bocca amara. Sentivo un rumore di piatti in cucina. Alzai la testa e vidi May in piedi davanti al lavello. Indossava un paio di jeans di velluto marrone sbiadditi e un maglione bianco e aveva raccolto i capelli striati di grigio in una coda di cavallo trattenuta da un elastico. La stuoia e le coperte erano arrotolate ordinatamente in un angolo. Stavo per chiamarla quando a un tratto la rividi rannicchiata sul materassino nel tentativo di nascondere il seno nudo. Mi ributtai sul cuscino, chiusi gli occhi e a poco tutte le cose che avevo fatto quella notte mi tornarono alla memoria con dettagli minuti orribili. Dovette accorgersi che ero sveglio a causa del sudore sul mio viso. Sentii la sua voce bassa e stridula sopra di me. «Dunque, pensi di essere pronto per mangiare qualcosa?» Quando aprii gli occhi, era curva su di me. Aveva un'espressione calma e grave. «May», cominciai. Non riuscivo a guardarla. Lasciai ricadere la testa. «Sì?» disse freddamente. Sapevo che stava aspettando. Io non so, cominciai da capo. Con uno sforzo sollevai la testa. Mi stava ancora guardando, uno sguardo fisso, immobile. Mi dispiace, ma dovrai trovare un modo per dirlo. È il minimo che mi aspetto. Mi dispiace, dissi. Che altro posso dire? C'è qualcosa che io possa fare per dimostrarti quanto sono dispiaciuto? Continuava a fissarmi, ma ora c'era una contrazione all'angolo della bocca. Non ti senti troppo virile adesso, suppongo, disse. Già. Le sue labbra si distesero in un sorriso. Poi mi tese una mano e mi diede un colpetto sulla nuca. Forza, alzati e lavati la faccia. Poi vedrò di darti qualcosa per colazione. Thank you.